Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ragazzi, l'argomento è ancora caldo, adesso diventa letteratura e filosofia. Giorgio De Luca è il nostro autore, oggi c'è Paolo Corleoni in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Se mi vedete, perché potete vederci attraverso la webcam sul sito di Radio 24 e sulla nostra pagina Facebook con il maglione al collo, è perché mi sta venendo un po' di mal di gola. E domani saremo in, speriamo migliori il tempo, perché saremo in diretta dal Salone dell'Automobile di Torino al meraviglioso Parco Valentino. Spero che riesca a venire anche Pardo. Sì, farò tutto, farò il possibile. Farai, mi svegliamo all'alba. So. Se vieni ci divertiamo, è bellissimo. Bellissimo. Un po' saluto. Torino, Parco Valentino, entusiasmo, auto. Manca solo la Champions League. Adesso sei veramente sponzo. Metti il dito nella piaga. Sì, metto il dito nella piaga perché? Perché Pierluigi Paragone ha scritto su un libro, Gianluigi, io con i nomi. Faccio casino anche con i nomi dei miei figli, quindi perdonatemi, è l'età che avanza. Gianluigi Paragone, che tutti conoscono, spesso ospite dei salotti di Pardo, ha scritto su Libero questo articolo un po' filosofico, secondo cui la Juventus è, leggo, altro che coppa maledetta, la maledizione dentro di noi. La Juve, ne ho preso coscienza la notte scorsa, non potrà mai avere quella forza epica perché è una squadra costruita dal potere e nel potere, solo che è un potere locale. Poi, più avanti, la Juve perde in Europa perché ha paura di diventare grande. Di diventare grandi significa spogliarsi del potere italiano, smetterla di atteggiarsi a padrone dell'universo. Da Elkanah Danielli, passando per Marotti, tromboni suonati in Italia, diventano timidi mezzi flauti nelle finali europee. Perdere 7 finali è leggendario, ai noi, sfigatamente leggendario. Risponde Massimo Zampini, che è invece qui con noi. Ciao Massimo Zampini. Ciao, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Io non ti dico, non sono d'accordo con questa spiegazione filosofica. Cioè, non vuol dire che un grande club perché è un grande club italiano, perché è il club più vincente, non possa esserlo anche in Europa. Il Real Madrid, il Bayern Monaco, ci sono molti esempi. Una volta c'era la maledizione dei rigori per l'Italia, poi maledizione sfatata. L'Italia non ha vinto una Coppa dei Campioni dagli anni 60 fino a quando è arrivato il Milan di Sacchi. Mi sembra una spiegazione un po' filosofica. Non so cosa tu hai risposto a questo che ha scritto Paragone. Che cosa hai risposto? Ma io ho risposto che non sono d'accordo su nulla di questa parte del suo articolo, che è un articolo secondo me dettato dallo sfogo, perché altrimenti da uno sfogo per la rabbia, per la finale persa, diciamo, abbiamo perso tutte le ultime 5, quindi ci sta in quel senso come sfogo. E se no, se non fosse per questo, mi pare solo un articolo ammiccante ai noi juventini, perché il potere dire che la Juve, che è appena arrivata in finale di Champions, quindi più avanti di squadre come Bayern, Barcellona, squadre incredibili, superiori a noi, 2 anni fa ha fatto lo stesso. Io da quando sono nato e vado allo stadio da quando ho 15 anni, 20 anni, non da quando ne ho 3, ho visto allo stadio 6 finali di Champions League della Juve, 6 finali di Champions League, cioè sì, dire che quindi la Juve poi diventa... Anche i milanisti ne hanno viste diverse, solo con esiti differenti. Poi non è colpa del potere italiano se all'Isère succede una tragedia. Paragone, lo stiamo per sentire. Paragone l'abbiamo cercato, però eri in treno, quindi c'era rischio galleria, eccetera, eccetera. Quindi lo so. Ma no, ma posso dirti una cosa? Dimmi, lo cercheremo senz'altro nei prossimi. Il calcio negli ultimi anni è oggetto e materia anche per intellettuali, per valutazioni diciamo più letterarie, filosofiche, sociologiche. Il pezzo di Paragone è un pezzo che va in questa direzione, è un pezzo provocatorio sul fatto che la Juve è talmente abituata in Italia a essere dominante che poi quando si trova a livello europeo questo potere, che è un potere forte, che esiste in Italia, spesso vacilla, ma è ovvio poi che le partite di calcio non dipendono da dalla Fiat o ma da no, Ieri, ma non dipendono da Cristiano Ronaldo e da Dybala, quindi è chiaramente un pezzo provocato, non è che devo fare la valutazione di paragone, però io l'ho interpretato così. È chiaro che se facciamo un discorso invece più strettamente tecnico, la Juve, l'abbiamo detto varie volte in questi giorni, è arrivata seconda in Europa, ha perso nettamente e meritatamente la finale, a differenza di 2 anni fa, secondo me non è uscita a testa alta, contro pronostico riuscì a fare una buona partita contro il Barcellona, quest'anno era nettamente sfavorita, il Vento, che sembrava a favore o quantomeno si potesse giocare alla pari, è stata nel secondo tempo messa sotto pesantissimamente, e però rimane la finale di Champions. Io sai che penso che comunque la mia filosofia, forse perché a me non me ne frega niente, è che certe emozioni è comunque meglio viverle, è sempre meglio andare avanti. Ma certo, in finale, finale bisogna arrivarci, conta così, anche il risultato sportivo dell'arrivare in finale. Però io non riesco a cogliere questo nesso dell'essere grandi in Italia, vuol dire non esserlo da un'altra parte, perché altrimenti il Bayern Monaco ha fatto incetta di Bundesliga, non avrebbe mai vinto la Champions League, lì la vince una sola questa una sola raramente alla Juventus, Massimo Zampini. Poi, anche tu scrivi, primi in Italia, secondi a Ronaldo, sì, resta il grande dubbio che poi proveremo a chiarire dopo il traffico di nuovo, perché non arriveremo mai a una conclusione, di un cedimento strutturale di una squadra dalla quale non ti aspetti un cedimento strutturale di quel tipo, punto. E su questo sono d'accordissimo, infatti dipende di cosa parliamo, se parliamo della partita singola sono d'accordo con te e anche con Pier. 2 anni fa fu una sorpresa clamorosa non solo arrivarci in primis, ma secondo come ce la siamo giocata fino al 95esimo, che poi finisce 3-1, ma perché la Juve è tutta avanti a cercare un 2 pari col Barcellona al 95esimo, stavolta no, hanno mollato al primo e secondo tempo, poi sì, deviazioni, quello che vuoi, ma è stato un dominio e basta. Quindi anch'io mi aspettavo di più, quindi questo si può dire, che fa male, e come, non va negato. Però da questo lo dico anche a tanti juventini, appunto, cioè da questo poi a mettere in dubbio tutto, cioè io rifirmo in questo secondo per avere una stagione così e me ne frego della presa in giro del rivale se perdo una... no, perché molti ho paura, molti juventini ho paura che abbiano timore, soffrano dopo 6 scudetti, dopo aver massacrato tutti in Italia, delle prese in giro del rivale che dice perdi la finale di Champions. Ma arrivarci, c'è chi ci arriva una volta ogni 50 anni. Ma non è ovvio, ma questo è indiscutibile. Ma arrivare in finale è un grande risultato sportivo. Se vogliamo essere sportivi e non esclusivamente tifosi, è un grande risultato sportivo. Quindi ha ragione in questo Pierluigi Pardo. È chiaro che perdere fa male. Quando arrivi, è chiaro che perdere fa male, ed è anche chiaro, e Buffon l'ha detto con onestà intellettuale, che c'è modo e modo di perdere. Se voi guardate le facce dei giocatori della Juve 2 anni fa a Berlino, al momento della premiazione, e guardate quelle di quest'anno, non c'è partita, ma giustamente, perché 2 anni fa c'era sicuramente un po' di delusione, ma c'era la fierezza di essersela giocata praticamente fino alla fine. Quest'anno invece c'è stato un crollo del quale non psicologico. Guarda, io continuo a buttarla a spostarla dalla filosofia alla psiche, perché secondo me è successo qualcosa nella testa degli juventini. Pochissimi in Italia pensavano che la Juventus non avrebbe completato l'operazione, ma noi stessi non lo pensavamo. Ieri abbiamo sentito Giancarlo Marocchi, lui stesso non lo pensava, perché sembrava l'anno perfetto, sembrava tutto apparecchiato, e forse questo ha giocato un suo ruolo, non lo so, io non lo sanno, magari neanche loro, non lo saprà mai nessuno, Massimo. Sì, qualcosa c'è secondo me, guarda, io non so quanto i giocatori infatti avvertano questo clima, posso dirti che sul fronte ambiente, tifosi, parlo di questo, secondo me questo parlare di scemenze come il triplete da settembre, ottobre, novembre, dicembre, fai fuori Barcellona e la Gazzetta ha titolato ora c'è aria di triplete, ma di che? C'è Real Madrid, c'è Atletico Madrid, c'era ancora la sorpresa a Monaco, dovevamo vincere la Coppa Italia. Cioè c'è stata una pressione sulla stagione, io per questo temevo anche sul discorso campionato, Coppa Italia, perché quando sei favoritissimo non è mai detto, tanto più con Real Madrid se ti ritieni favorito, questi hanno fatto 3 vittorie in 4 anni, insomma vuol dire qualcosa non va. Ti ritieni favorito. C'era da dire, Massimo, che Juve Barcellona comunque era una partita che aveva, almeno per me, ma aveva fatto impressione, perché quando comunque tu arrivi in Barcellona e lo fai in 180 minuti dominando l'andata e giocando una partita comunque di grande controllo al di là insomma del del dubbio estetico di Sacchi, ma io veramente ho avuto la fortuna di commentarla. Insomma, penso che qualsiasi tifoso della Juve avrebbe firmato. No, è stata meravigliosa. Quella partita è stata meravigliosa. Serena, è stata no? Dico, 0-0 del ritorno, la tranquillità quasi irreale. Cioè, guarda, guarda per Luigi. Zero gol in 180 minuti aveva cambiato la percezione. Quindi se ti posso, Pier, se ti posso dire, io continuo a pensare che il vero, la vera grande partita dell'Inter nell'anno delle triplete fu quella di Barcellona. Fu quella di Barcellona che fu una partita meramente difensiva. Però, ragazzi, se guardiamo lo sport dai due lati del campo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole una concentrazione, una preparazione fisica. È anche quello uno spettacolo non appariscente, ma anche, almeno dal mio punto di vista, è anche quello uno spettacolo. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. Quella partita fu un capolavoro di agonismo, fu un capolavoro di tutto quello che abbiamo detto e che non abbiamo visto contro il Real. Allora scusami, però io per questo dico, a paragone amichevolmente, ma tutti gli juventini in questo momento dubbiosi su tutto, là cosa succede? Non siamo più provinciali o diventiamo provinciali solo in finale? Intanto tu elimini il Barcellona, sei l'unica squadra che ha eliminato il Real negli ultimi 4 anni, perché per il resto ha vinto. Cioè, per questo dico, hai perso le finali. Se le perdi, secondo me, contro Messi, Suarez, Neymar, Ronaldo, Benzema, Cross, Marcello e compagnia, può capitare, purtroppo. Poi anch'io mi aspettavo di più dalla partita singola. No, poi se le perdi contro Magath, contro Borussia Dortmund dei Reduci, esatto, contro Mijatovic che segni fuori gioco. Poi ci sono altre finali su cui le recriminazioni, esatto, possono essere maggiori. Massimo, ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao, ciao Massimo, grazie. Zampini, ciao, ci fermiamo. Ci fermiamo per il traffico, Pier, un attimo. 800 24 00 24, è il numero verde, e poi torneremo su questa gara provando ad approfondire degli aspetti tattici. Tutti convocati. Convocati. Pardo, è un piacere, no, per noi di Tutti Convocati, quando possiamo raccogliere il sì di Alberto Zaccheroni, vero? Certo. Certo. Mister, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Grazie di aver risposto alla convocazione. Senta, qualche anno fa, molti anni fa, nella mia città che è Pavia, crollò la torre civica. Una mattina venne giù, così, bam, non c'è stata mai nessuna spiegazione. L'unica spiegazione è stata un cedimento strutturale. Le dico questo per insomma, è nella mia memoria, perché forse a un cedimento strutturale come quello della Juventus non può esserci una spiegazione tecnica. Lei se n'è fatta una? Ma io ho soprattutto visto che non ho vissuto quei 15 minuti nello spogliatoio, ho cercato di darmela, di trovare un perché. In casa Juve, perché la squadra è rimasta meno compatta, soprattutto sul settore di sinistra della Juve si sono create delle distanze tra giocatore e giocatore, parte del parto maggiore rispetto ai primi 45 minuti, ma io ho riconosciuto un grande merito al Real. Sì, certo, un grande merito, un grande merito che compensa un grande demerito del primo tempo, ovvero la grande qualità del Real in mezzo al campo. Il Real aveva due grandi vantaggi in mezzo al campo: aveva più qualità tecnica e aveva superiorità numerica. Sì. E entrambe nei primi 45 minuti non sono state sfruttate. Si giocava molto in ampiezza, ci cercavano molti terzini, sì, usciva molto Varane, e poi dopo nel secondo tempo ha cominciato a dare la palla a Kroos, ha avanzato il raggio d'azione di Modric e di Kroos, innescando Isco, che ha fatto una partita meravigliosa. La spiegazione tattica è certamente quella. Diciamo che Isco ha giocato 45 minuti, perché il primo tempo l'abbiamo visto molto poco, sì. Poi quando è salito in cattedra, che hanno cominciato a sollecitarlo che l'hanno cercato, è cambiata la partita, perché poi dopo i due attaccanti sono là che aspettano l'imbeccata giusta. Poi sono stati anche bravi dopo ad andare in ampiezza, ad aprire gli spazi a tre quarti. Certo, hanno trovato la chiave. I gol sono venuti fuori lì, quindi io vado ad analizzare i demeriti della Juve, però vado anche a cercare i meriti. Cosa è cambiato anche nell'approccio, nell'atteggiamento del Real. Quindi questo può voler dire che Allegri qualcosa ha sbagliato, insomma, no? Sicuro. Quando c'è un verdetto così evidente, è ovvio che insomma Zidane ha battuto Allegri. Zidane ha battuto dove Pardo, secondo te? Secondo me la posizione di Casemiro è stata un tema, lo sfruttamento delle fasce laterali è stato un tema, poi c'è tutta una serie di cose che non sono strettamente legate a posizioni in campo dal punto di vista tattico, ma che riguardano non tanto l'approccio alla partita, perché la Juve non era dispiaciuta nel primo tempo, però la capacità di stare in partita nei 90 minuti, lo stesso Allegri l'ha riconosciuto, la squadra si è disunita, non ha avuto la pazienza e l'intelligenza di rifiatare qualche minuto, di lasciar sfogare il Real e provare a rimanere attaccati alla partita. Questo secondo me è abbastanza imperdonabile, ma l'ha riconosciuto lo stesso Allegri. Sì, anche Buffon che ha detto che queste partite di solito vanno affolate, devi resistere una decina di minuti, il problema è che la loro folata non è finita mai. Zaccheroni è d'accordo? No, in parte perché il calo è arrivato anche dall'uscita dalla partita di alcuni giocatori che sono letteralmente scomparsi. C'è un tempo Mandzukic la fase difensiva non l'ha più fatta, è rimasto l'arco sulla sinistra alto. Se era un 4-4-2, Mandzukic sulla linea dei centrocampisti. Nel secondo tempo sulla linea dei centrocampisti non l'abbiamo praticamente mai visto. Sì. Quindi diciamo che la squadra si è disunita. Non credo assolutamente che Allegri gli abbia suggerito di comportarsi in questo modo. No. Poi Dybala era quello che doveva garantire l'equilibrio anche al centrocampo. Non pervenuto. Non pervenuto. Perché altrimenti era un 4 contro 2, no? Perché mettiamoci anche Casemiro, questo centrocampo rombo, 4 centrocampisti stretti, contro Piani c'è Chiedira, che Chiedira non era la giornata migliore. Quando tu perdi il centrocampo perdi la partita. Certo, ma poi è emerso anche un difetto strutturale della Juventus, cioè la mancanza di un centrocampista che è stato cercato di livello, che è stato cercato e non è mai arrivato, tanto che Allegri si voltava verso la panchina, chi vede Marchisio reduce da 1000 infortuni, vede Lemina, vede giocatori di questo tipo, quindi questa è certamente una lacuna da colmare dal punto di vista dell'organico, lacuna che l'altra sera ha probabilmente pesato. Voltiamo un attimo pagina, perché poi allargheremo il discorso anche al resto, oltre ai ricordi amari di questa finale. Spalletti sta volando in Cina, paese che lei conosce, è l'uomo giusto per rifondare l'Inter? Ma se rimaniamo in campo italiano, fortemente. Io credo che Spalletti oggi abbia raggiunto una tale maturità in aggiunta al suo carisma, alla sua personalità. Io credo che di meglio, guardando il panorama degli allenatori a disposizione liberi, io penso che di meglio non potesse trovare. Credo anche che sia giusto tentare la soluzione interna, cioè la soluzione di un italiano in questo momento, in cui l'Inter deve gettare le basi. Sì, lo penso anch'io, E quindi credo che un conoscitore del calcio italiano e di giocatori come lo penso assolutamente tornare. Anch'io la penso assolutamente anch'io così. Un'ultima cosa, un luogo comune cui io non sono voglio rifarmi un attimo a quello che è successo la scorsa stagione, perché secondo me l'Inter è arrivato un allenatore che sul piano tattico a me piace moltissimo, che è Pioli. Però quelle squadre lì vanno gestite come grande esperienza. Beh, soprattutto in queste fasi, e secondo me Pioli si è perso nel momento in cui è passato nel linguaggio miglioriamo la prestazione, continuiamo a migliorare la prestazione. poi è arrivata la partita con l'Atalanta, sono arrivate le voci su Ponte. Beh, bravo, ma certo, ma il punto di svolta è stato quello lì, Alberto, inutile nascondersi, il punto di svolta della stagione è stato quello lì, sono cominciate ad arrivare le voci su Ponte, è crollato l'intero castello. Intanto da oggi Pioli... Non doveva assolutamente toccare quel tasto lì nella comunicazione esterna, doveva limitarsi a rimanere, secondo me, sulla prestazione, come ha fatto fino allora. Sì, ha perso la squadra. Lì ha perso la squadra dalle mani, e questo è un punto di vista estremamente vero ed estremamente interessante, Pardo. Sì, ma sicuramente quello è stato il momento chiave. Ci sono, secondo me, anche... Secondo te ha sbagliato Pioli, come dice Zaccheroni, nel fatto di toccare quel tasto lì? Probabilmente sì, anche è vero che la squadra si è afflosciata improvvisamente, come ha riconosciuto anche l'Ambrosio, nel momento in cui la Champions è apparsa come un obiettivo non più raggiungibile, e questo è grave, è gravissimo, e sappiamo che poi l'allenatore in qualche modo si prende i meriti e fa la sintesi della stagione della squadra, quindi perché questo sia avvenuto non lo so, però è successo ed è abbastanza incredibile. Come improvvisamente la squadra si è evaporata in termini proprio di atteggiamento in campo. E dispiace perché, insomma, la prima parte della stagione di Pioli era stata molto positiva, però è vero, il punto di svolta da tutte vinte, tutte perse. Beh, ma è chiaro, Alberto, e il punto di svolta è quello lì, così come il punto di svolta della stagione della Roma, che poi è finita bene, sono state a gennaio, all'inizio, quelle conferenze stampa strambe di Spalletti. Comunque, che non sapeva dove sono d'accordo con Vinter, è un'ottima stessa per Vinter. L'unico vero dubbio, secondo me, visto quello che Spalletti ha messo in luce quest'anno, cioè una straordinaria capacità tecnica, perché la Roma comunque ha fatto bene, molto bene, e ancora qualche difficoltà nella gestione della comunicazione interna ed esterna. Ecco, l'unico vero elemento è va protetto, va aiutato Spalletti con una figura che possa essere un po' il ministro degli interni, che possa dargli una mano nella gestione. È la persona di Oriali che dovrebbe arrivare, mi pare comunque giusta. L'unico punto interrogativo che vedo sull'Inter non è certamente dal punto di vista delle risorse, che sono enormi, né dal punto di vista della qualità dell'allenatore, ma della struttura della società. Insomma, in certi momenti, anche perché ci saranno grandi pressioni, quindi grandi aspettative, alle prime difficoltà, insomma, c'è bisogno che ci sia grande disponibilità economica, ma anche, se li conosco bene, se ho capito bene come sono, nei pochi mesi in questo stato di Cina, molto pretenziosi nel breve tempo. Bravo Alberto, ha fatto bene a sottolineare questo. Grazie Alberto Zaccheroni, grazie. Scusami, al volo, grazie l'esonero di Pioli lo dimostra, perché è un esonero che arriva a tre giorni dalla fine, in tanti altri avrebbero preferito non dare quel segnale, aspettare la fine della stagione, tanto perso era così. Invece questa, anch'io ho notato questa... Sì, fretta, questa, cioè, ricerca del dici, subito, insomma, sì, loro ci mettono i quattrini, però vogliono vedere Cammello, insomma. Esatto. Il discorso è questo, esatto. Lo vogliono vedere subito. Ci fermiamo per la borsa, poi entriamo anche con Sandro Sabatini, par condicio. Ieri abbiamo sentito Bonan, oggi Sandro Sabatini, che sarà protagonista dell'estate del mercato di Mediaset. Ci sono un sacco di argomenti che riguardano l'Inter e non solo. State con noi. Tutti convocati. Questa settimana storie poetiche e storie esaltanti al Falco e il Gabbiano. Nel giorno del mio compleanno anch'io torno bambino e racconto la storia di un uomo che non voleva crescere, James Barry, autore di Peter Pan. E poi la folle vita del Mozart moderno, Mozart perché era austriaco, si chiamava Hans Oelzel, ma noi lo conosciamo come Falco. E poi voliamo sulle ali di carta, raccontiamo la storia di un bambino, di un orfano che vive il suo grande riscatto, Oliver Twist. E poi Enrica Lombardi, la grande imprenditrice che ha salvato tanti bambini in Africa. Se il calcio continua a divertirci, probabilmente lo dobbiamo anche a lui, a Rinus Michels, l'uomo che inventò i tulipani olandesi. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, il Falco e Gabbiano su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Normale, lo sappiamo, in questi giorni soprattutto i nostri ascoltatori non abbiamo una gran voglia di parlare, domani possono anche venirci a trovare di persona a Parco Valentino, a Torino, Salone dell'Auto. Proprio da Torino chiama Fausto, che magari ha in programma una gitarella da quelle parti, no Fausto? Buongiorno, sì, no, non farò la gita perché lavorerò mio malgrado, ma comunque sarò col pensiero, insomma, vicino a voi. Vabbè. Senta. Dica. Io vorrei partire da una considerazione che poi arriverà una domanda su cui vorrei il vostro parere. Vada, dica. La considerazione è quella che intanto la Juventus si presenta ciclicamente a questi appuntamenti e questo sicuramente è un merito, perché sono squadre che spariscono per anni dai radar europei e poi c'entrano l'obiettivo finale, beate loro, però a cui poi non fa seguito un cammino così sostanzioso come quello della Juve. La domanda era questa: noi a Torino abbiamo visto sbagliare le finali a giocatori immensi, a Platini, a Zidane, alcuni dei quali poi se la sono ripresa con altre maglie, sì. E quindi così, allenatori stessi che hanno, per cui sorvolerei sulla critica eccessiva rispetto ai protagonisti che sono andati in campo. La mia domanda è questa: la società che viene giustamente presa come modello, indicata come modello per i successi interni, per la gestione delle situazioni anche di tensione durante le annate di campionato, non può allo stesso modo essere messa sotto osservazione rispetto a come gestisce le finali, perché questa squadra va in una sorta di pentola a pressione ogni volta prima della finale. La mia domanda si conclude qua e vi ascolto per radio. Non lo so, io non credo che la Juventus, che gestisce bene ogni situazione, abbia dei problemi storici nel gestire l'approccio alle finali, no Pierluigi? Beh, i numeri dicono questo, però i numeri sono pure statisticamente poco rilevanti, non è che giocano 50 finali, non è che non giocano 50, quindi sicuramente io penso che questa finale, l'abbiamo visto, è stata in qualche modo condizionata dalla tanta pressione che c'era sulla Juve, sì. Il famoso ufficio faccia che abbiamo sottolineato, sì, no? Sì, però sì. Era lo stesso motivo per il quale magari in tanti pensavano che fosse invece la Juve a dover vincere, proprio perché aveva più fame. Nella finale di due anni fa la Juve, secondo me, si è visto, è arrivata a quella partita con una pressione minore, perché aveva meno da perdere, perché già arrivare la in finale... società nella preparazione alla finale c'entri abbastanza poco, relativamente. Anzi, nulla forse. Il lavoro della società lo valuti con i risultati esatto, con il fatturato che è cresciuto tanto. Con l'organizzazione, con quello che è diventata la Juventus negli ultimi 7, 8, 10 anni. Poi è ovvio che tra vincere e perdere una finale passa tutta la differenza del mondo. Chiaro, però stiamo cercando delle spiegazioni anche laddove non ci sono, l'impressione. Claudio? Sì, dica. Dica? Niente, io ho una mia teoria. Sì? Stiamo facendo raccolta di teorie, anche le sì, più strane. No, semplicemente l'analisi che faccio da sportivo, legata anche a un discorso, diciamo così, diverso, che poi lo capirete, no? Io sono un gufo di quelli ferocissimi contro la Juventus, ero tranquillissimo che avrebbe perso, perché infatti l'ho detto tranquillamente su Facebook, sì. È probabile, tutti gli amici che mi conoscono lo sanno, sì. Perché erano tutti convinti al 1000 per 1000 di vincere quest'anno, io ho detto perdete, basta, sì. Per un semplice motivo, perdono perché hanno un karma negativo, tutto quello che karma, hanno fatto in Italia, lo lasciano in Europa. Sì, karma, anch'io avevo paura di questo karma, l'ho detto, c'era molta sicumera in questa spedizione, che ha accompagnato questa spedizione, sembrava tutto apparecchiato, l'ho detto anche prima. Il karma, a Roma, calma. Un po' c'entra, no? Nel senso che poi parlate con i tifosi del Benfica, la Juve, l'abbiamo detto mille volte, in Italia ha una tendenza a essere dominatrice e qualche volta a essere aiutata dagli episodi, e sto parlando di episodi, non sono malizioso, nel senso che tante volte, in tante situazioni, la Juve trova il gol all'ultimo minuto, è la squadra che non smette di lottare, magari fa la deviazione a favore, no, nella storia, nella storia di questo campionato. E all'estero no, all'estero è evidente, anche la partita dell'altro giorno, Buffon ha ragione, poi ovviamente non è che questo cambi niente. Sì, ma non però, perché c'è una serie di deviazioni assurde. Sì, certo, però non perché, come scrive Paragone, sei grande in Italia non puoi essere, sei provinciale non puoi essere. No, ma poi io spero di riuscire a parlare con Gianluigi domani, quando non sarà in treno, e sarebbe, ripeto, quello, sarà molto interessante, pezzo, perché è un pezzo di astrazione dal calcio. Assolutamente, assolutamente, di questo parliamo con Sandro Sabatini, invece, signore del mercato di U Premium Mercato, parliamo di altre cose. Ciao Sandro. Ciao, però siccome sono giorni di parole in libertà, no, come quello che ha telefonato poco fa, allora con tutti che hanno delle loro teorie, addirittura quello ha detto del calcio, della karma, no? Di calma, che lui l'aveva scritto su Facebook, perché poi ognuno dice, io l'ho scritto su Facebook, ormai ognuno pensa di avere il proprio mezzo di comunicazione. Sì. No, Sandro, facciamo fatica a sentirti, proviamo a ricollegare. Ho il telefono io. Mi hai presentato il telefono tu, facciamo fatica a sentire Sandro Sabatini. Questi, a me questi che intervengono in radio con questi telefoni, c'è tutta la mancanza di rispetto nei confronti del conduttore Genta, no? Guarda, io faccio una fatica. Incredibile. Senti, Pier, facciamo così, adesso abbiamo il traffico in attesa di ricollegarci con Sabatini, anche perché poi il primo argomento all'ordine del giorno è tornato Sandro Sabatini, ma ho già lanciato il traffico, quindi sentiamo il traffico e poi torniamo, abbiamo più calma per parlare. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Tutti convocati. Dunque, adesso dovremmo sentire Sandro Sabatini, che aveva la sua, ma non l'abbiamo colta. Sandro. Sì, io sono sotto un temporale, come in questo momento è fragoroso, direi, a Milano, siccome c'è un temporale di teorie, no? Su perché la Juventus ha perso contro il Real Madrid. Abbiamo sentito anche l'ascoltatore di prima che diceva addirittura che aveva scritto sulla sua pagina Facebook, avessi detto. Era gufo, però. Sì, la CNN, che lui aveva la sua teoria, addirittura era colpa del karma della Juventus. A me mi sembra che tra tutte queste teorie se ne sentono veramente di fantasiose, poi si perda di vista la pratica. C'è la teoria e poi c'è la pratica. La pratica dice che il Real Madrid era superiore comunque alla Juventus. Sì, però anche se le dimensioni della sconfitta effettivamente non era tanto una questione di dimensioni, Sandro, era la dimensione del modo, è la questione del modo in cui la Juventus ha perso, è il modo che nessuno si aspettava da squadra vera, solida, organizzata, combattiva, quale la Juventus è diventata e quale ha dimostrato di essere lungo tutta la stagione. Però la prima domanda che ti voglio fare da appunto signore dei U-Premium Mercato è ieri, allora torno a ieri, sì. Abbiamo contattato un grande amico di Allegri, una persona molto vicina ad Allegri, non è riuscita ad intervenire, ma ha concluso il messaggio in cui declinava la convocazione scrivendo: Parigi va bene una messa. Ma no, io credo che Allegri... Faccio le percentuali, volete gli exit poll, le percentuali, la mia previsione. Io dico che Allegri a 60% resta la Juventus. 60 o 70 hai detto? Sì, 60-70, cambia poco. C'è una percentuale consistente, forse in attesa e più superficiali, comunque che Allegri non si trovi con la Juventus in questa... discussione che non è economica, è una discussione di fiducia reciproca, di stima reciproca, di verifica della... di verifica della fiducia, come si fa al governo. Non è tanto, non è tanto 60-70. Anche secondo me non è tanto. Vuol dire che non è una... Non è che una mi dici 90 su 3 o addirittura 2 su 5 che... Non lo so, non è tanto, però allora, cioè, io dico che il margine che Allegri non credo al Paris Saint Germain, io credo che possa restare fermo e credo che ci sia per un motivo molto semplice: è alla fine di ogni stagione, come ci sono le pagelle a scuola, capito? Lo studente vuole sapere com'è andato e in base a com'è andato puoi chiedere ai genitori il regalo. Lo studente è andato benissimo. No? Cioè, scudetto, Coppa, finale Champions League, com'è andato? Ho capito, ma allora quali sono gli allenatori che nel mondo hanno 3 scudetti, 3 Coppa Italia e 2 finali di Champions League negli ultimi 3 anni? Appunto. Il Real Madrid, notizia di oggi, ha rinnovato il contratto a Zidane fino al 2020 a 7-8 milioni di calcio. Sì, poi lì... Appunto per questo, cioè io non credo che la Juve possa avere... un'opzione alternativa sarei curioso di sapere qual è il piano B, anche perché non secondo è... me i professori vanno da uno studente e gli consegnano una buona pagella. A quel punto è lo studente che può decidere che nonostante la buona pagella non è contento, però mi sembrerebbe strano. Esatto, soprattutto però se Sandro ci dice che non è una questione di soldi, però io mi rifiuto di pensare che sia un problema arrivato dopo la notte sfigatissima di Cardiff. Guarda, cioè, il problema nelle grandi società se ne parla prima, no? Carlo, io ci cito la puntata inaugurale di Tiki Taka News con Pierluigi Pardo, che se lo ricorda, era la vigilia di Monaco-Juventus. Venne fatta una domanda ad Allegri, perché sui giornali trapelava il messaggio: accordo fatto, tutto a posto, Allegri resta, prolungamento di contratto. E una domanda ingenua, gli disse: scusa, ma te allora è tutto a posto? E lui rispose con un sorriso, perché poi non è che puoi cambiare il modo di porsi o di parlare o il carattere della persona. Allegri è quello. Con un sorriso disse: guardate, io sinceramente con Marotta non ho mai parlato di questo. Passò molto in secondo piano alla vigilia, passò molto in secondo piano perché poi la Juve vinse, doppietta di Higuaín, eccetera, eccetera. Sì. Da quel giorno in poi non c'è stato ci sono state prima della finale di Cardiff, sia da parte di Allegri che da parte di Marotta, una serie di vediamo e poi ne parliamo, e questo insomma lasciava aperte diverse porte, mentre prima le porte erano chiuse, resto punto e basta. Non credo che la Juve abbia una soluzione in questo momento pronta migliore di Allegri. Appunto, quindi, quale può essere un piano B, Sandro? Ma non, sinceramente non lo so, mi viene in mente Paolo Sosa, ma è un nome che sparo praticamente a caso. Praticamente a caso, insomma, capito? Io credo che poi, ora non voglio fare quello che sta da una parte sola, perché come la Juventus ha bisogno di Allegri, anche Allegri ha bisogno della Juventus, nel senso che una panchina sono buoni tutti a trovarla, ma una panchina di livello della Juventus, bravo, capito? Esatto, è una panchina di altissimo livello internazionale adesso. Solo che, parliamoci chiaro, il raggiungimento del livello internazionale è dovuto in buona parte, non dico in gran parte, proprio ad Allegri. Certamente, che ormai è un allenatore top. In un momento, perdonami, di sincerità e di schiettezza, anche questo nel corso dell'anno magari passato in secondo piano, lo fece arrabbiare una volta e disse: prima che arrivassi io avevate paura del Malmo. O del Galatasaray, ricordo. Cambio argomento invece, perché appunto Spalletti sta volando in Cina per concordare i piani. Prima parlavamo con Zaccheroni che diceva giustamente: in Cina mettono i soldi, ma non è che abbiano tutta sta pazienza. Adesso si tratta di vendere un giocatore, per così come farà la Roma con Salah, io credo, per questioni di bilancio da aggiustare entro il 30 giugno. Il nome doveva essere Perisic, Spalletti vorrebbe trattenere il giocatore anche perché è uno dei migliori che ha, e quindi si potrebbe fare un pacco con dentro Brozovic, Muriglio, Banega e Ranocchia, si dice. Sì, sembra una pubblicità però di quelle dei saldi. Di fatto così è. Vendere quattro giocatori credo che sia più difficile che vendere un giocatore. Poi io credo che il viaggio in business class, capito, di Spalletti verso la Cina serve anche per riflettere. Siccome il valore tecnico di Perisic nessuno l'ha messo in discussione, è evidentemente che l'integrazione nello spogliatoio, insomma, l'ambiente, il feeling, il comportamento, così, non deve essere di quelli che superano insomma qualsiasi delle perplessità. Ecco, io sì. credo che sia un corpo estraneo Perisic, e questo corpo estraneo ha un costo elevato, perché ogni anno poi a proposito dei rinnovi di contratto ha un piccolo sì. aumento. Ecco perché alla fine fai 50 milioni con un solo giocatore, poi gli altri valutazione costi benefici e decidi che no, poi il corpo estraneo lo spoglia nella vendere. Situazione che c'era, dove ognuno era praticamente un corpo estraneo a se stesso, insomma, a tutti gli altri, poi si creerà una situazione diversa. Io credo tecnicamente sono d'accordo, lo capisco, la vedo come Spalletti, il giocatore è forte, è di livello internazionale. Però se comunque l'Inter ha deciso di venderlo dopo tutto questo tempo, io non credo che sia soltanto perché è il più facile, è un assegno circolare, mentre gli altri invece ci devi lavorare di più. Io credo che sia stata fatta una valutazione più approfondita. Penso di sì. Va bene. Grazie Sandro, ti seguiamo. Ciao. Pier, abbiamo un minutino per salutarci, per darci appuntamento domani a Parco Valentino e per dirmi, conoscendo bene insomma, il lavoro di Spalletti, che, quali ruoli devono essere coperti nell'Inter, secondo te? A lui se non ha bisogno solo, ha bisogno. Fossi nel partner dell'Inter, mi assicurerei di fargli fare soltanto, diciamo, la parte strettamente di campo, nel senso di evitare che si possa incartare o che ci possano essere problematiche simili a quelle che ha avuto a Roma con, sì, cioè, con allenatore punto e basta, o con qualche giocatore, no, ma non allenatore punto e basta, anche manager, anche Spalletti è un straordinario calcio a 360 gradi. A Roma ha messo in evidenza delle enormi qualità tecniche, secondo me qualche limite caratteriale di comunicazione. Quindi tu dici primo acquisto che deve essere fatto Oriali, che ha accompagnato chiari, anche l'avventura di Mourinho. L'uomo per gli esteri c'è, nel senso l'uomo del mercato, l'uomo contro i talenti c'è, probabilmente un uomo che metta ordine all'interno della società, nello spogliatoio, e che dia una mano lavorando assieme a Spalletti, perché tutto si diventa più. Grazie Pier, senti, io ti aspetto domani a Torino, sì. al Salone dell'Auto, Parco Valentino. Spero che tu faccia in tempo ad arrivare, altrimenti ci sentiamo al telefono. Insomma, sarà una sorpresa anche per i nostri ascoltatori. Sarà un trionfo, certamente. Ci vediamo qui per il GR, poi torniamo, e torna anche, signore e signori, Marino Bartoletti. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. Dopo il Giro d'Italia che ha seguito, come ben sapete, è con un piacere che non potete immaginare che saluto il ritorno del maestro Marino Bartoletti. Buongiorno Marino. Ma grazie Carlo, veramente una gioia per me, e ti assicuro che mi siete mancati relativamente, perché vi ascoltavo tutti i giorni. Figurati tu, e invece noi non ci siamo sentiti per un po'. Allora dichiaro pubblicamente, ufficialmente, che oggi mi assumo la totale responsabilità delle nostre scelte musicali con cui lanceremo i temi. Oh mio Dio, Marino, ecco, oh mio Dio, con cui lanceremo alcuni argomenti. No. Allora, oggi siamo andati abbastanza sul banalotto, a cominciare da questa. La ballavamo negli anni 80 in discoteca. Voi che eravate piccoli. Noi che eravamo piccoli. No, Illusion, ovviamente il riferimento è a quella coppa dalle grandi orecchie che è ancora sfuggita alla Juventus. Abbiamo sentite tantissime, è chiaro che volevamo sentire anche la tua autorevole. Prima ho citato, abbiamo discusso con Zampini di questo articolo provocatorio di Paragone, per cui siamo grandi perché siamo la squadra costruita nel potere, dal potere nel potere italiano, mentre quando andiamo fuori di grande ci rimangono soltanto le sconfitte, i record delle sconfitte. Marino, io non riesco, ma credo non ci sia una spiegazione per un cedimento strutturale della Juventus. E penso anch'io, guarda, io non so se questo articolo sarebbe stato scritto lì domani della doppia prova col Barcellona, per cui poi tutti quanti dobbiamo essere onesti con noi stessi, naturalmente. Io non dico che l'Italia avrebbe dovuto tifare Juventus, anche se penso che una vittoria italiana avrebbe in qualche modo fatto bene al movimento italiano. Ti dico quello che ho convenuto vedendo la partita in un posto assolutamente privilegiato, perché ero in un campo di calcio a Montepulciano, di fianco a un grande radiotelecronista, un grande collega, che è Riccardo Cucchi. Quella sera eravamo stati premiati, lui per motivi che posso immaginare, io per motivi che mi sfuggono, nell'ambito di un trofeo giovanile. Quindi eravamo in mezzo ai ragazzi, abbiamo vissuto con serenità quella partita. Abbiamo convenuto che la Juventus ha vinto meritatamente il campionato di calcio e Real Madrid ha vinto meritatamente quella finale. Cedimento strutturale, il problema è il modo, perché la Juventus così non te l'aspetti, cioè non ti aspetti una squadra strutturalmente così solida che cede di schianto. Come direbbe Biscardi, quando quae bonus dormit atomerus, nell'arco di un'annata si può stare anche quel cedimento strutturale di fronte però a una macchina perfetta che è Real Madrid, con uomini perfetti, con tradizione perfetta, evidentemente anche con la capacità di trovare le serate giuste nel momento giusto, cosa che ha fatto per tutto l'arco dell'anno la Juventus. Però dire che è una finale perduta, è una sconfitta per il movimento calcistico italiano, è essere ingrati, perché a questo punto allora i tedeschi cosa dovrebbero dire, gli inglesi cosa dovrebbero dire? Questo è chiaro. Io continuo a pensare che il Real Madrid sia arrivato allo stadio con diciamo due risultati a disposizione, cioè vincere o perdere non sarebbe cambiato moltissimo. La Juventus è arrivata allo stadio con un risultato a disposizione, o così o come si diceva in quella pubblicità. Inquieta, se parliamo di movimenti nazionali, il fatto che le ultime quattro Coppe dei Campioni, così le chiamo io, sono andate tutte in Spagna, mi sembra che negli ultimi 9 anni ne abbiano 26 loro, quindi evidentemente è un movimento calcistico dal quale abbiamo ancora, dal quale dobbiamo imparare ancora parecchio. Però la Juventus, volando al di sopra di fedi, di passioni, di odi, di antipatie, di pregressi, eccetera, eccetera, non può non essere individuata come il modello di riferimento del calcio italiano. Guarda, io capisco quelli che molti suoi non estimatori, chiamiamoli così, considerano dei peccati pregressi, però la Juventus di quest'anno è abbastanza inattaccabile. Assolutamente. Dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ammetterlo. Allora, io vado su un altro pezzo invece, un altro grande classico di un artista che so che ammiri, è questo. La puzza di benzina mi fa girare la testa, quando sto su di lei è proprio la mia festa. Mi guardo quando passo sui vetri dei negozi, mi accorgo che con lei mi sento proprio Fonzi. Sei come la mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei. Sei come la mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei. Questa è Giovanotti prima edizione, no? Di quando era giovane. Siamo vicino all'orgasmino, lo sai. Sì. Prima ti dico una cosa, poi entro in Giovanotti perché ho tanti motivi. Io questa sera sono a Milano perché devo presentare una serata che vorrei vedere da spettatore, non da conduttore, dedicata al grande Enzo Iannacci, che avrebbe compiuto, che compie gli anni il 3 giugno. La serata non è stata fatta per non disturbare la concomitanza della finale tra Juventus e Real Madrid. Una canzone idonea, lui l'aveva scritto per quella serata, che è Sociupà. può succedere una volta, dai. Giovanotti, allora cominciamo dal mio concittadino Andrea Dovizioso. Io inizierei da lì perché insomma io ho goduto, al di là della Ducati, ho goduto nel veder vincere Dovizioso, che è l'eterno perdente, che viene spesso criticato, che non è forse personaggio, che però è un pilota che mi piace da morire e per cui non riesco a non fare il tifo. Allora, nel triplete italo-romagnolo, ricordiamo. Italo-romagnolo, fai bene a ricordarlo. Nel di domenica scorsa al Mugello, sì, sì. La vittoria più luminosa è stata evidentemente quella di Andrea, che è una persona che voglio profondissimamente bene. Lo conosco da quando era bambino. Mi ricordo con molto orgoglio, perché questo è il momento dell'immodestia, di avergli fatto un regalo, dedicato una targa nell'anno in cui poi sarebbe diventato campione del mondo da 125, che gliel'avevo facilmente predetto, con me sfondi una porta aperta. C'è una cosa che dico senza malinconia, ma la possono capire soltanto gli addetti ai lavori. L'ultimo grande pilota forlivese si chiamava Otello Buscherini e morì il giorno dell'inaugurazione del Mugello nel 1976. L'idea 41 anni dopo questo nato e cresciuto lo abbia ricordato in questo modo mi ha profondamente commosso. No, poi, sai, mi è piaciuto molto la sua ingenuità dal palco, dire vedo molto giallo, però vi ringrazio per la sportività, ma l'ha detto senza una punta senza malizia, di ironia, perché sappiamo com'è il movimento, gli addetti ai lavori dicono però che per la Ducati, terzo Petrucci naturalmente, per la Ducati sarà un fulmine, cioè sarà un lampo nel buio, lasciando stare Lorenzo, perché quella moto... tanto è lì, gli cambiano i compagni, ma tanto lui è lì. Sì, lui è lì, la Ducati nei prossimi Gran Premi vediamo, ma lui c'è. Poi sai ragazzi, lasciami dire che la Romagna è l'unica terra del mondo in cui la moto è declinata al maschile, noi diciamo emutor, il motore, ma quanto siamo maschi noi. Senti, adesso invece vorrei, con ultimo brano, ultima traccia, anche qui bella quanto scontata, chiederti qualcosa sulla tua ultima esperienza. Sotto questo sole è bello pedalare, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere sotto questo sole. Ragazzi, lo so, vaccini straconosciuto, là delle biciclette, insomma, ma Paolo Belli naturalmente, meraviglioso pezzo, molto noto, e sai che ti voglio chiedere del Giro d'Italia, che ti sei portato a casa da questo giro? Intanto che sotto questo sole è stato bello pedalare, perché non abbiamo visto un solo giorno di pioggia, cosa che non mi era mai accaduta in un'esperienza trentennale. Certamente la pioggia, la neve, il maltempo, la bufera aggiungono drammaticità, però ti assicuro che fare una discesa all'asciutto invece che al bagnato è molto più confortevole per i corridori. L'unica macchia di bagnato che c'era, Nibali l'ha asfaltata, ti ricorderai, compiendo un'impresa assolutamente straordinaria. Un bel giro, perché anche a onore di chi l'ha ideato, poi certamente siamo italiani, ci dispiace che quella maglia rosa non sia finita idealmente su un petto tricolore, però sai, quando si arriva a 30 km scarsi dalla fine e ci sono quattro corridori in 50 secondi, vuol dire che comunque c'è, credimi, un allineamento verso l'alto e non verso il basso. Il grande Lucio Dalla diceva che i festival di Sanremo si giudicano dal podio. Beh, il podio del Giro d'Italia di quest'anno è stato un gran bel podio, perché Dumoulin è un corridore che non sarà indurain, ma sicuramente di strada ne farà. Quintana e Nibali qualcosa nella loro vita hanno fatto, e credo che qualcosa continueranno a fare. Sì. Alla fine chi ha organizzato questo giro, chi ha assistito a questo giro, ha buoni motivi, certo, di ottimismo, certo, da trarre. Non tutti sono legati al futuro del ciclismo italiano, anche se abbiamo delle buone giovani leve. Speriamo che Aru lo si riprenda da quello che gli è accaduto, speriamo che Nibali, questo paio d'anni buoni, importanti che gli restano, possa tenere alto, come dire. Certo, il nome di questo nostro ciclismo che si deve misurare una volta contro l'Europa, adesso con tutto il mondo anche contro Mario. È chiaro, con tutto il mondo nella globalizzazione del denaro, del dio denaro. Grazie Marino, Sentiamo, io spero martedì, poi non so quali saranno i tuoi impegni, ma... Martedì sarò niente meno che al Giro d'Italia Dilettanti, perché è stato ripristinato quest'anno, certo, grazie all'intervento di Davide Cassani, appassionatissimo commissario tecnico, e finalmente potremo rivedere anche le nostre forze giovani che si misurano in qualcosa che invece era sparito negli ultimi tempi. Pare che nel calcio, lei mi insegna, professore, qualcosa si stia muovendo a livello di vivaio, anche questa Under 20 ci fa sognare. Vediamo se anche nel ciclismo abbiamo qualche campioncino di domani. Grazie Marino, spero di pescarti al Giro d'Italia. Lì mi peschi senz'altro, sarà ti un pesco totale senz'altro. Relax. Fantastico, Marino Bartoletti, grazie. Allora, io torno a un paio di ascoltatori prima di sentire soffiare il vento dell'est. Giorgio, buongiorno. Dalla provincia di Venezia, a proposito di est e a proposito di finalista del campionato di basket. Dica. Pronto? Pronto, dica. Sì, non ho tantissima voce, dica. Sono di Verona, che c'entra un po' con Venezia, ma comunque non fa niente. Ma hanno scritto provincia di Venezia, io leggo Giorgio provincia di Venezia. Non cambia nulla, non è un problema. Niente, rapidamente, primo, come tifoso juventino dico ai miei colleghi che vi ricordaste dove eravamo 6 anni fa, quindi dopo 6 scudetti tra Coppa Italia, vabbè, il rammarico c'è, però piantiamola lì. Primo. Seconda cosa. E la Juve ha perso, secondo me, per un motivo molto semplice. Aveva 3 attaccanti, 2 mezze punte, e da febbraio gioca con 3 attaccanti e 1 mezza punta sempre in campo. Si è fatto male pure Piazza. Ovviamente la copertura che poteva andare, i vari Manzo, Dybala, Gueye, compagnia cantante, non poteva durare per 4 mesi in quel modo. Ma neanche crollare nella notte più importante, però, Giorgio. Siamo d'accordo, resta il fatto che già a Roma si era visto. Sì, dei segnali c'erano stati, però insomma io credo che le energie, anche fisiche, pure dove non le hai, per l'appuntamento più importante riesci a trovarle. Ormai quell'assetto era diventato abituale, poi è chiaro che hanno finito tutti sfiniti. Real Madrid stava meglio fisicamente, però sulla partita a sé, che sulla finale di Coppa dei Campioni, non è che puoi giocare un tempo e poi basta, non ho più, non ce la faccio più a tornare a coprire. Faccio l'esempio di Mandzukic, come è stato fatto giustamente e correttamente prima, che nel secondo tempo è rimasto là davanti. Andrea, dica. Eccomi, ci sono. Provincia di Bologna, giusto? Sì. Stavolta giusto. Noi ci eravamo sentiti già quest'inverno e ho detto che tutta questa solidità la Juve, secondo me, non ce l'aveva, si è dimostrata. Perché quando giochi 30 partite su 38 contro nessuno, giochi 20 minuti, gol lo fai comunque, o comunque in qualche maniera ne viene fuori. Poi nel momento del dunque, quando giochi contro qualcuno di vero, quindi Barcellona, anche, Barcellona niente. L'unica partita, l'unica squadra che, tra l'altro, in uno scarso stato di forma, ha incontrato durante tutta la Champions. Con il Lione, se non sbagliano il rigore, vanno fuori ai gironi di eliminazione. In Italia ha giocato col Napoli, ha perso, con la Roma ha perso, con l'Inter ha perso, col Milan ha perso. Mi dispiace, ma nel lungo periodo, quando giochi con squadre medio-piccole... Non sono molto d'accordo, ma un giorno apriamo un dibattito su questa storia vecchia del campionato italiano non allenante. Volevo aprire la prima con Zaccheroni, ma non c'era il tempo. È vero, non abbiamo il campionato delle 7 sorelle, di quello che ci ricordiamo, di quando eravamo belli, fighi e ricchi. Però abbiamo un modo di giocare molto particolare che mal si adatta al modo di giocare, insomma, che europeo, ma non mi dite che ad esempio il campionato tedesco sia così allenante, o che quello francese sia così allenante, o che lo stesso campionato spagnolo sia così allenante, sia così diverso. L'unica vera differenza io la vedo in Inghilterra, dove ci sono tante squadre ricche, ma la finale di Champions League non la vedono la vedono col binocolo per il momento. Matteo Soragna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come stai? Tutto in ordine. Finale di basket che si è disegnata ieri sera e che non abbiamo mai visto nella storia. Ma d'altra parte non l'hanno mai visto neanche quelli che la giocano, no? Venezia e Trento. Matteo, dicevo prima, sentiamo soffiare il vento dell'est. Diciamo che innanzitutto c'è un vento nuovo, e quello è quello che è successo quest'anno. Probabilmente per quello che riguarda Trento, sicuramente a sorpresa, anche se ha buttato fuori Milano, molto più che meritatamente, perché li hanno veramente ridicolizzati, sarebbe la parola giusta. Oddio, ridicolizzati no, però sicuramente uccisi dal punto di vista dell'energia, quello sicuramente. Sì, io ho visto una squadra con un'altra, contro un'altra cosa che squadra non era. Qui possiamo aprire un lungo processo a Milano in cui io potrei usare parole durissime, tu per giustamente per signorilità non lo faresti, ma Venezia, la serie tra Venezia e Avellino invece è stata una splendida serie tra due squadre vere che giocano una gran pallacanestro. È stata una serie molto bella, veramente incerta, anche se ha vinto poi Venezia meritatamente, perché ha vinto 4-2, però le prime due partite sono state in un modo, le altre due in un altro, hanno giocato una bella pallacanestro perché tutte e due le squadre avevano talento. Venezia ha avuto qualcosina in più secondo me dal punto di vista proprio delle gambe, però è una squadra molto completa. Avellino si basava soprattutto su due guardie che avevano veramente tantissimi punti nelle mani, invece Venezia, diciamo che tra gli effettivi è quella un po' più completa, che può distribuire un po' di più i punti. Sì, è anche una squadra ricca di storia, una storia che alla nostra Serie A fa un po' difetto. Adesso salirà, vediamo se Trieste o quale delle due Bologna, ma c'è molta della storia della nostra pallacanestro al piano di sotto, con una sola promozione. Ridiscutiamo per favore questa formula. Comunque, vabbè, stiamo divagando. La favorita per me è Venezia, anche perché Trento, insomma, ti direi quasi che il test con Milano è probante fino a un certo punto. Può essere vero, l'unica cosa è che allora, sicuramente Trento ha meno talento diffuso rispetto a Venezia. Però è una squadra di cagnacci, nel senso che difendono la morte tutti, in attacco si muovono tanto, hanno diverse lacune in attacco perché è una squadra che fondamentalmente non ha un tiratore puro che sia uno, e quindi tirano veramente poco da fuori, fanno poco canestro, però hanno un'energia che per tutta la seconda parte del campionato nessuno ha mai avuto. Teo, un'ultima cosa. Si legge di Pianigiani a Milano, lo sai anche tu, lo sai bene, Pianigiani, il signore degli scudetti a Siena, contro una società ben organizzata, ma non starei a dilungarmi su questo argomento, ex CT della Nazionale con alterni risultati, può essere l'uomo che risolve, perché insomma Milano un problema allenatore ce l'ha. Beh, non lo so, se devo essere sincero, di sicuro dovranno ricostruire la squadra, avranno dei tasselli che devono tenere, gli italiani soprattutto, perché li hanno appena firmati, quindi sono anche giovani e hanno la possibilità di crescere, però dovranno riformulare la squadra soprattutto dal punto di vista della, come dicevi tu prima, era una squadra che non sembrava una squadra quella di quest'anno, perché dal punto di vista soprattutto mentale non sono mai riusciti a stare assieme e a dimostrare di essere forti, e la serie con Trento ha semplicemente evidenziato questa problematica, perché soprattutto in gara 5 avevano delle facce proprio che non ci credevano nemmeno loro, quindi soprattutto Milano dovrà ricostruire da quel punto di vista. Grazie Matteo. Ti abbraccio. Grazie a voi. Ciao Matteo. Ciao. Buon lavoro. Grazie a Matteo Soragna. Chiudiamo qui questo programma. Riapriremo i giochi domani in trasferta da Parco Valentino di Torino al Salone dell'Auto. Saremo lì con tutti i convocati. Grazie a Giorgio Lunga, nostro autore, a Paolo Corleone, oggi in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.